su Zara sarà appaltato a un consorzio di cooperative la gestione dei magazzini e l'approvvigionamento dei negozi. Gli autori di queste cooperative sono autori che vengono pagati con un contratto non idoneo alla mansione che svolgono, quindi sottopagati, hanno un mancato riconoscimento delle loro prestate. È praticamente la solita storia, cioè nel senso che attraverso il sistema di cooperative si crea la condizione di competizione sul costo del lavoro e sulle pelle dei lavoratori. Quello che è avvenuto questa settimana in Zara è che abbiamo, come dire, i lavoratori hanno denunciato questa situazione, abbiamo preso carico delle verifiche di quanto veniva denunciato, abbiamo fatto un esposto alla Procura Pubblica e alla Guardia di Finanza rispetto alle situazioni cooperative e abbiamo chiesto a Zara di essere responsabile rispetto all'appalto come committente. Domani c'è l'incontro nazionale con Zara, vediamo qual è il risultato. Oggi, in questa settimana, continuano le iniziative in Emilia Romagna, mentre in giro per l'Italia i consorzi cooperative tentano di fare conciliazioni individuali con i lavoratori per transare la condizione economica che si è determinata in corso degli anni. Quindi mi pare di capire che è un po' quello che si verifica spesso nel settore degli appalti e, come dire, la committenza non vuole assumersi responsabilità? È una fotografia che ormai si è, come dire, radicata nel sistema degli appalti. La committenza scarica sull'appaltatore i costi, gli appaltatori sono soggetti in alcuni casi che si coprono dietro a cooperative spurie o a cooperative nate dalla sera al mattino, quindi a società di scopo, applicando contratti inidonei e del solito fine, che noi in regione abbiamo affrontato su due fronti: uno sindacale, contrattando contrattualmente con le vertenze in atto questo sistema di cooperative, l'altro dal punto di vista legislativo, perché in questo ricordo che abbiamo fatto il patto per il lavoro, la legge sulle gare appalti, che crea uno strumento che è a nostra disposizione per contrastare questo modello, questo sistema produttivo. Per quanto riguarda l'esposto che avete presentato, qual è l'oggetto? L'oggetto è irregolarità contrattuale, irregolarità nella gestione delle retribuzioni, irregolarità nella gestione dei orari di lavoro, mancata registrazione delle entrate e delle uscite, cioè quello riguarda i rapporti di lavoro che sono in corso nell'appalto. E nel rapporto con il committente chiediamo la responsabilità solidale del committente. La questione non riguarda solo l'Emilia Romagna, abbiamo visto diversi siti appunto sparsi un po' per tutta l'Italia. La questione in particolare riguarda l'Emilia Romagna, Lombardia e il Lazio. Fra l'altro, gli appaltatori nel Lazio hanno fatto ricorso in occasione dei presidi a squadre di picchiatori, assoldandole e minacciando i lavoratori in presidio che protestavano rispetto alle loro condizioni di lavoro. Quindi siamo a questo livello. È una situazione che è delicata, pesante, che bisogna essere affrontata in maniera risolutiva e definitiva. Ripeto, in giro per l'Italia, fra l'altro, questo consorzio tenta le conciliazioni individuali, in qualche caso ha fatto anche conciliazioni individuali con questi lavoratori, però in generale temo voto, nel senso che ormai siamo arrivati a un punto dove non c'è un ritorno indietro. Si deve chiudere la partita applicando i contratti nazionali di lavoro e regolarizzando le posizioni contributive e retributive dei lavoratori. Quindi queste sono un po', come dire, le aspettative che avete per il tavolo di domani? Aspettative del rapporto con il committente, che il committente o si impegna ad affrontare il rapporto con l'appaltatore questi temi in maniera risolutiva o diventa responsabile insolito, per cui il committente deve assumersi la responsabilità di quello che è avvenuto e che sta avvenendo. Certo. Se l'incontro ha un esito positivo, come speriamo, bene, se no continua l'iniziativa di lotta che abbiamo intrapreso ormai da settimane.